TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Buona domenica da Rita Micoli. In questa edizione domenicale del giornale radio che precede la radiocronaca dell'incontro di campionato Sassuolo-Udine cominceremo parlando della mostra delle mele di Pantianicco per proseguire poi con la giornata conclusiva di Trieste Next e la presentazione a Caporetto di Alessandro Barbero. Due fine settimana per fare il punto sulla produzione di mele in regione, con particolare attenzione agli aspetti fitoterapici, ma a Pantianicco c'è stato anche un focus sugli aspetti economici e commerciali di questo importante settore della frutticoltura regionale. Un comparto in salute è un prodotto che potrebbe essere maggiormente valorizzato. Parliamo della mela friulana. A Pantianicco si celebra la sua festa da 54 anni. Premi, degustazioni di un prodotto a chilometro zero e il bilancio di una produzione che quest'anno ha sfiorato le 65.000 tonnellate nei quasi 1.100 ettari di coltivazione in Friuli. Pordenone e Udine con oltre 500 ettari nelle due province. La ticchiolatura, un fungo, è uno dei nemici più insidiosi per i meleti, oltre alle condizioni atmosferiche, la pioggia. Il prezzo medio è cresciuto del 25% negli ultimi due anni, ma l'aumento ha riguardato soprattutto il prodotto finale sul mercato. Helmut Danai, un comparto in salute, la produzione è andata bene quest'anno? Sì, quest'anno la produzione non era male, a parte un po' le piogge in fioritura che ci hanno un po' fatto rotto per la fecondazione, ma è andata abbastanza bene. La ticchiolatura è un problema nelle ultime annate? La ticchiolatura per noi è un grande problema perché è una malattia fungina che specialmente sulle mele, quando sono le primavere piovose ci vuole una buona difesa perché sennò dopo ti trovi con le mele tutte macchiate che vanno all'industria e non sul mercato fresco. Il prezzo medio annuo è aumentato del 25% dal 2023, ma questo aumento però non ha riguardato la produzione, non è un aumento che è arrivato nelle vostre tasche, insomma. Una parte sì, perché dipende tanto dal mercato europeo, perché se in altre zone ci sono brinate, manca la produzione, allora il prezzo si alza. Se tutti hanno pieno, il prezzo scende. Allora, però una parte ci arriva anche a noi, il grosso arriva ai commercianti. Pantianicco, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Una giovane ferita in modo grave ed eli trasportata a Udine, altri due feriti meno gravi trasferiti all'ospedale di Pordenone nell'incidente che nella notte ha coinvolto a Fontana Fredda una vettura su cui viaggiavano cinque persone. L'auto è uscita di strada, ha urtato un cordolo e ha preso fuoco. Ad aiutare i cinque occupanti sono stati per primi gli amici in un'auto che li seguiva. All'arrivo dei vigili del fuoco la macchina era completamente avvolta dalle fiamme. Luigi Naldini, pioniere della terapia genica, con cui ha curato moltissimi bambini, è uno degli incontri di spicco di Trieste Next, che oggi si avvia verso la chiusura. La consegna del premio Trieste Next al miglior libro di divulgazione scientifica dell'anno è al centro dell'ultima giornata del Festival della Ricerca Scientifica Trieste Next. Al Teatro Miela la giuria di 300 lettori da tutta Italia sta decidendo chi sarà il vincitore tra i cinque finalisti che nei loro saggi hanno toccato tutti i temi di attualità, dalla conquista dello spazio al computer quantistico del futuro, in grado di eseguire calcoli oggi impossibili, alla geopolitica dell'intelligenza artificiale. Ieri sera invece grande partecipazione per l'incontro con il premio Nobel per la chimica 2012 Brian Kobilka e per quello con Luigi Naldini, direttore dell'Istituto San Raffaele Telethon per la terapia genica, che ha curato 180 bambini con malattie genetiche rare attraverso la terapia genica, di cui è considerato il pioniere. Sentiamolo al nostro microfono. È una storia lunga, andiamo quasi a 30 anni fa, quando l'entusiasmo per la nuova possibilità di intervenire sui geni come farmaci mi aveva affascinato. Noi possiamo pensare di trasferire informazioni genetiche per correggere quelle difettive che si possono essere avute con la nascita e dare origine a una malattia genetica, oppure insegnare alle cellule a fare qualcosa di nuovo trasferendo informazioni. Per fare questo abbiamo bisogno però di entrare nel nucleo di una cellula, cosa che i virus sanno fare molto bene, le tecnologie di laboratorio molto poco. E quindi negli anni abbiamo imparato a utilizzare i virus addomesticandoli, diciamo, in modo che invece di portare informazioni virali che servono al virus per propagarsi, portare informazioni terapeutiche. La storia specifica nostra è stata quella di addomesticare, se volete, uno dei virus più temibili come HIV, ma è anche un virus che è particolarmente efficiente a entrare nelle cellule umane e a inserire i suoi geni nel DNA delle cellule stesse. Trieste, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. All'Università di Udine è iniziato il nuovo anno accademico dell'Accademia delle Liberabilità, progetto post diploma di inclusione sociale e lavorativa dedicato a giovani con disabilità cognitive. Sono una trentina i partecipanti all'iniziativa, che punta alla piena partecipazione alla vita sociale grazie a 4 corsi e 3 laboratori che spaziano dalle discipline umanistiche a quelle scientifiche. La missione del progetto è ampliare le opportunità di inserimento nel mondo lavorativo, nonché accogliere gli studenti del corso di laurea in educazione professionale del Dipartimento di Medicina per stage e tesi di laurea sul metodo di insegnamento inclusivo. 12:21, uno sguardo al meteo, il cielo è da variabile a coperto sulla regione, sereno sulla costa, le temperature delle 11, a Trieste 19 gradi, mare mosso con temperatura di 23,5 gradi, a Gorizia 21 gradi, a Udine 20, a Pordenone 19, a Tolmezzo 16 gradi, sul Piancavallo 12, a Tarvisio e Forni di Sopra 11 gradi, a Sappada 9, sul Monte Zoncolan 6, sul Monte Lussari 4, Grado e Lignano 20 gradi, temperatura del mare rispettivamente di 23 e 21 gradi. Le previsioni dell'ARPA: questo pomeriggio cielo in prevalenza poco nuvoloso, tranne che nel Tarvisiano dove ci potranno essere nubi basse. Di notte poi al mattino soffierà bora moderata sulla costa e sulla pianura orientale, con raffiche anche sostenute a Trieste, poi nel pomeriggio calo di intensità. Domani al mattino cielo in prevalenza poco nuvoloso, dal pomeriggio nuvolosità in aumento specie sulla zona montana e sulla pianura, dove saranno possibili piogge sparse, in genere deboli. Di notte al mattino soffierà bora moderata a Trieste. In 700, sotto un tendone a Caporetto, hanno seguito la lezione dello storico Alessandro Barbera sulla battaglia del 1917. Una giornata piena di eventi nel comune sloveno nell'ambito di Go 2025. In molti hanno seguito la conferenza da un maxi schermo allestito in piazza. Raccontare la battaglia di Caporetto a Caporetto. Il popolare storico Alessandro Barbero ne ha parlato proprio nella località slovena. Esperto di Medioevo e di storia militare, Barbero aveva già conosciuto questi luoghi per scrivere il libro su Caporetto, pubblicato per il centenario nel 2017. Io devo dire che anche oggi mi sono riemozionato dicendo: guarda, quello è lo Stol e quello è il Matajur. E ognuno di questi posti gronda, per carità, di sangue naturalmente, però anche di ricordi, di memoria. L'evento organizzato da Historia è stato inserito nel programma di Go 2025. Penso che io, come quasi tutti quelli che sono qui, mi ricordo benissimo di quando la frontiera era chiusa, sbarrata, sorvegliata, ci volevano i documenti per passare. E allora, diciamo, il mondo di oggi non è in generale un posto molto più sicuro e molto più piacevole rispetto a 20 o 30 anni fa, però questa frontiera qui sì, qui davvero è cambiato qualcosa in meglio. I biglietti d'ingresso gratuiti messi a disposizione su internet si sono polverizzati immediatamente. Ce l'abbiamo fatta ed eravamo increduli. Noi, tra l'altro, veniamo da Parma, quindi insomma abbiamo fatto un po' di strada, però per il magister questo ed altro. Caporetto, con la ritirata verso il Piave dell'esercito italiano, i profughi dal Friuli, dal Veneto orientale, i molti prigionieri di guerra e i tantissimi sbandati, fu una disfatta a cui però un anno dopo seguì la vittoria italiana della guerra. È troppo comodo, quando si subisce una disfatta, dire vabbè, però poi dopo ci siamo ripresi e abbiamo vinto. Le lezioni vere vengono dalla sconfitta. Io nel mio libro su Caporetto avevo messo come epigrafe una battuta di Billie Jean King, la grande tennista, che mi era sembrata perfetta, e diceva: la vittoria è passeggera, la sconfitta è per sempre. Caporetto, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Due appuntamenti: quello della stagione diffusa dei Filarmonici Friulani, con un concerto interamente dedicato a Mozart alle 18, oggi in Sala Madrassi a Udine. Poi la 20ª edizione di Parole e Musica per un Domani, quest'anno dedicato all'uomo e l'ambiente, fa tappa a Talmassons alle 18 nel Mulino Braida nell'ambito della Festa delle Risorgive. Lo sport, tra pochissimi minuti, il fischio d'inizio a Reggio Emilia di Sassuolo. Udinese incontro della quinta giornata di campionato che apre il programma della domenica di Serie A. Sappiamo bene le difficoltà di questa partita contro una squadra che gioca bene e ha un buon possesso palla, ha detto alla vigilia il tecnico bianconero Runjajc, e si inaugura oggi a Lignano il decimo trofeo CONI, il più importante torneo sportivo giovanile d'Italia. Saranno 4.600 gli atleti under 14 che parteciperanno fino a mercoledì alle gare in 44 discipline sportive. La cerimonia di apertura alle 18.30 allo stadio Tegil, ad accendere il braciere i tedofori Tara Dragaš, promessa della ginnastica ritmica italiana, e il cestista dell'APU All Wild West Udine Mirza Alibegovic. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio regionale, in regia Samuel Montalto, Carlo Morello, Daniela Postu. In redazione ha collaborato Isabella Parutto. Da Rita Micoli grazie per l'ascolto e una buona domenica. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.